Signore e signori, riprendono le trasmissioni in diretta dagli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124 Milano. Facciamo le 7 e qualche secondo. Così dovrebbe essere anche nei vostri orologi, al polso, sul cellulare, sul cruscotto della macchina, l'orologio IKEA che avete appeso lì in cucina. Come faccio a saperlo? Non ne avessi visti in giro. Il buongiorno vi arriva dalla voce dell'Ariele, fresco e pimpante come una rosa anche stamattina, orgoglioso della sua missione da portare a termine anche in questo martedì 18 di dicembre. La mia missione? Augurarvi il buongiorno. Fatto, grazie, ciao a tutti. Ci si risente domani, ciao Spadino, vado di là a schiacciare un pisolino, posso? Il buongiorno l'ho dato, basta, da contratto, no? Ciao! Pane, burro e rock and roll. Si sta a scazzare, no? La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. L'unica con Mister Trombetta, inconfondibile. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno in diretta vi trasciniamo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Questo è il nostro compito. Poi vi conosciamo, mascherine. Mannaggia all'ascolto frazionato, poi solitamente non riuscite a sentirla tutta la trasmissione, ma noi vi vogliamo bene uguale. Cioè, a quello che ascolta 5 minuti, e a quello che gli ascolta un quarto d'ora, e a quello che ascolta due ore, noi gli vogliamo bene uguale. Stavo citando Spadino, è una citazione un po' contorta, ma se qualcuno l'ha capita potrebbe apprezzare. L'ora più dura della vostra giornata, quando ci avete lì la carogna che vi sale sopra, vi arriva fino al collo, ecco, questa è una trasmissione che non ve la toglie quella carogna, anzi ve la fa aumentare. Perché siamo scemi e solitamente le carogne sono sensibili alla demenza e aumentano. Però abbiamo un asso nella manica. L'asso nella manica si chiama la grande musica, con la G maiuscola e la M maiuscola in bolsetto, di Rock FM. Questa è l'arma con la quale poi penetriamo i vostri duri cuori da rocker e solitamente si diventa amici. Puntata 148. Sono ufficialmente in un grandissimo casino, ma ne parleremo nel corso della puntata. Tanto ho due ore per chiacchierare, quindi vabbè. Diamo inizio e via! Senti che inizione? Questa la suonavo in uno dei primi concerti che ho fatto a Somma Lombardo. Però c'avevo anche la catena al collo quando lo facevo. Sì. Perché suonavo anche i Misfits. Si faceva un po' Radiohead e un po' Misfits. Così. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. A beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I wanna have control. Scaga! A me piaceva solo quello. Caga! Creep. Uno dei primi singoloni ufficiali dei giovani Radiohead. Siamo tornati a gustarci così in questo 18 di dicembre. Vi vedo belli attivi, belli presenti. Oh, ce n'è sempre di bisogno dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici, perché qui, se no, gna famo. Questo è il problema fondamentale, e lo capite da Spadino che sbaglia le basi. Ecco. Perché c'ho Spadino in regia? Io non so, non ho... questa è la mia croce, veramente. Tra qualche minuto potrebbe raggiungerci, anzi, dovrebbe raggiungersi. Sicuramente lo farà, perché è molto interessato allo stipendio che gli diamo. Roberto Fricantoni, inventore del rock demenziale, poeta di riferimento di un certo tipo di letteratura italiana, e basta. Passerà qui negli studi la sua mattinata e sarà un piacere. Vi ricordo le coordinate: 335-100-7777. Questo è il numero di SMS al quale potete contattarci. E vi ricordo anche la casella di posta elettronica: ariel@radiorockfm.com. Croce e delizia di queste giornate si chiama calendario 2008, l'anno della svolta. Ve ne abbiamo parlato alla spicciolata fino a qualche giorno fa. Da ieri è vivo, vegeto, esiste. E sono orgogliosissimo del calendario di Pane, Burro e Rock and Roll. Il problema è che ho avuto un'idea geniale. Ho detto a tutti i miei colleghi: dite ai radioascoltatori che chi lo vuole deve scrivere ad ariel@radiorockfm.com. È successo, me l'avete chiesto. E adesso cosa faccio? Ma ce la farò, eh. Chiunque vorrà un calendario, io glielo porto. Piuttosto glielo porto in bicicletta, guarda. Ah, Spadino, l'ho promesso, ogni promessa è debito. Quindi, per chi è interessato al calendario 2008, ariel@radiorockfm.com. Mentre al numero di SMS vanno sempre come il pane le stupidate, quelle proprio. Potete scriverle a nastro. Accettiamo tutto. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. Cause I don't love you and you don't love me. Cause of commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. Got a problem. Can you play? I got a woman. Call it love. Pain. He knows about the long ways.

Un giorno ci racconterai i suoi viaggi Bologna-Milano, Milano-Bologna? Preferirei parlare dei miei viaggi Bologna-Tanzania, Tanzania-Bologna. Le facciamo oggi o facciamo un altro giorno? Facciamo oggi, martedì 18 dicembre. Esatto. Io farei un almanacco del giorno che fu. Dia il buongiorno ai suoi radioascoltatori. Buongiorno a tutti i miei radioascoltatori, ma soprattutto alle radioascoltatrici. Ho capito, anche ai radioascoltatori. Ho capito perché ha detto Tasmania. Perché voleva tuffarsi a bomba sull'almanacco di oggi. Esattamente. Che inizia con quale notizia? Era il 18 dicembre del 1642 quando il buon Abel Tasman sbarca a Moua, Golden Bay, divenendo il primo europeo a mettere piede in Nuova Zelanda. Buona, io Abel Tasman, tu indigeno? Dice che ha fatto così? Sì. E loro hanno risposto? Sì. Sì, indigeno. Guardi che comunque se vuole comprare l'Enciclopedia Britannica abbiamo qua gli ultimi numeri, gli hanno risposto l'indigeno. Attenzione. 1865, oggi la schiavitù viene abolita negli States con l'approvazione del 13° emendamento. Rullo di tamburi. Finalmente un'idea civile, un'idea progressista. Chiudiamo in bellezza. Mi dispiace chiudere, però stavamo andando così bene. No, ma ci risentiamo tra pochissimo, eh. Allora, era il 2004. Sì. Quando la rivista, prego maestro. Quando la rivista, lo dica bene, eh. Archeologische Correspondenzblatt. Si impegni che è un uomo che ha studiato, lo dica bene. Ci sono solo due diere. Allora, Archeologische Correspondenzblatt. Sì. Si fermi. Pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo. Si trattava, senta qui, di un flauto di 35.000 anni fa, costruito da una zanna d'avorio. Non so se crederci. In che senso, cosa perché dici? I tedeschi ci hanno già provato con i falsi diari di Hitler. Sì, lei. E non mi fido. Sente puzza di. Sì. Chi mi dice? No, era un flauto con i buchi. Sì, cioè una zanna con i buchi sembrava un flauto. Un flauto. Ma no, aspetti, potrebbe essere. Lei contesta. Ma sì, poteva benissimo essere uno stuzzicadente per una colonia di ciclopi tedeschi. Lei è scemo. Lei è più scemo. Io tattira tattira tattira tira ta. Uè! Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Thank you. tra, cu tra, cu tra. Something, Beatles. Certo che a volte penso che quello stronzetto con la faccia da bravo ragazzo che risponde al nome di Paul McCartney faceva dei giri di basso che spaccavano tutto. Onore al merito. Dai. C'era quella faccina lì da tiraschiaffi, eh? Perché è così. Però, no? Siete sintonizzati su Rock FM, solo qui d'altra parte vi svegliamo in codesta maniera. Brani della grande storia del rock e stupidate proprio da strada, così. D'altra parte, ci siamo scelti Roberto Fricantoni nella squadra e quindi ce lo meritiamo. Io sono veramente disarmato di fronte ai vostri messaggi e sento il peso del calendario da far arrivare a ognuno di voi. Lancio l'appello così veloce. Tino Tassista, ho pensato per gli amici milanesi, mi fai un giro tu? Cioè, organizziamo un giorno, andiamo io e Freak nel taxi, ci riempiamo di calendari e facciamo un giro. Era per scroccare un giro milanese, capito? Però poteva essere carino andare in taxi, no? Vabbè, dai, buttata lì, senza impegno. Mentre devo salutare per forza Giovanni, che già ieri mi aveva scritto, non avevo fatto tempo, vuol far arrivare il suo saluto a Pat, perché lui adesso è in Francia, da quello che ho capito. Però ci ascolta lo stesso, perché attende le nostre cover in italiano. Buon gustaio, Giovanni. E complimenti per la decorazione del suo alberello natalizio, che è sono delle corna, un bel paio di corna. Le corna fanno sempre rock. Sempre, guarda. Appena ci stanno un par de corna, proprio subito rock. E quindi a noi piace. Proseguiamo con i Chicago. 25 or 64. Mi si è arrotata una R, non so perché. Milano si sta risvegliando, le altre città anche. O viviamo noi un incubo qui così, sparsi nel nulla. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Di meglio in circolazione non troverete, fidatevi. My troubles seem so far away. Oh, looks as though they're here to stay.